pretendi niente di tutto ciò, frate, noi siamo schietti, secca, Sam 61 uccidono il tuo idolo. Sì, l'hai capito? Sai che 61 isolani non affondiamo come titani ti bari, sulle basi titani ti caghi, devastiamo tutto come Zab, con le tag nostro rap, pari alla circonferenza di un baobab, cortocircuito, millennium bug, così vi mandiamo in tilt, voi lo fate dalla street e noi da Ragarrera, roba che vi schiena come Primo Carnera, miro gente scema, rimo fa bufera, attivo nella scena, clandestino dalla schiera, BK, fianco a fianco con mio fratello Senka, nella città fantasma, fare questa roba mi entusiasma, come i primi tempi, quando sopra i muri facevamo i primi scempi, spinti dalle correnti, ora spingiamo noi, fottuti maledetti e siamo degli esempi, nuova scuola, buona foga, roba fora, sfiora il coma, la nostra parola vi trafora, bomba, più di una Daytona e la bomba detona. Ehi, niente vi sarò felici e contenti, niente di tutto ciò, frate, noi siamo schietti, Senka, Sam 61 uccidono il tuo idolo, la conclusione, il termine, l'epilogo, niente vi sarò felici e contenti, niente di tutto ciò, frate, noi siamo schietti, Senka, Sam 61 uccidono il tuo idolo, la conclusione, il termine, l'epilogo, ancora poco e siamo out, e questo è come sao, l'hai capito, frate, ciao, qua giù non è che sia rimasto tanto tempo, a parte quello del veleno che ti stai bevendo, non funziona più giocare a mosca cieca, no. Mi tocca togliere volumi più che in biblioteca, e dopo chiedi al mio collega delle pause che faccio con il fumo, tanto chi se ne frega, è un mondo lurido e bastardo, rispondo subito come l'amianto, duro e non diranno, questa qua era una comparsa, no è la tua che è una farsa, la mia mente è tipo vacca grassa, la manbassa te l'abbiamo fatta, la mannaia si è affilata sull'ennesima carcassa, mi dicono passa, Senka passa, fagli un'altra, figlio di bagassa, sempre della stessa razza, war time, perché non ti puoi permettere, i piedi sulle nuvole, la testa sopra lettere, teso tipo ti bagni se tocchi le mie mani nude, e fu così che tutto si concluse, la fine. Niente vissero felici e contenti, niente di tutto ciò, frate, noi siamo schietti, Senka, Sam 61 uccidono il tuo idolo, la conclusione, il termine, l'epilogo, niente vissero felici e contenti, niente di tutto ciò, frate, noi siamo schietti, Senka, Sam 61 uccidono il tuo idolo, la conclusione, il termine, l'epilogo. 2-0-0-0-8 Senka, mio fratello Sam 61, Mister Nobody, Lazy Boy Production, morto che parla, istituzione radicale antagonista, la mannaia, e questa è Sassa.